Sono le ore 9:55 di domenica 15 dicembre 2024. E ogni tanto continuano a arrivarmi domande anche su Telegram di persone che mi chiedono che cosa leggere, che quotidiani leggere per essere ben informati. Non ho una risposta univoca e comunque sarebbe una risposta personale. In realtà nell'ultimo capitolo di Unframing c'è un po' una mia idea, una mia guida a come ancora usare i mezzi di informazione in tempi così tossici per tutta l'industria dei media. Personalmente quello che dico è che ogni giorno più o meno compro un quotidiano diverso, ma non per coprire un ipotetico arco parlamentare, tutt'altro, ma proprio perché ormai ogni giorno un quotidiano offre qualcosa di diverso, no? Faccio un esempio: nel weekend, il sabato, magari compro il Manifesto perché c'è l'inserto Alias, e la domenica, come oggi, compro Repubblica che ha l'inserto Robinson. Sono entrambi inserti, secondo me, fatti bene. Poi adesso, a prescindere dal contesto, dalla situazione dei gruppi editoriali. E quindi oggi, chiaramente, ho letto anche Repubblica. C'è questo articolo di Ezio Mauro, come al solito scritto molto bene, che si intitola I garantiti e gli esclusi, o Gli esclusi e i garantiti, non me lo ricordo, che commenta naturalmente l'ondata di empatia verso Luigi Mangione, cioè l'assassino di Thompson, l'amministratore delegato di questa compagnia assicurativa americana, reo di aver introdotto meccanismi addirittura di intelligenza artificiale per massimizzare le giustificazioni dei rifiuti. E quindi chiaramente poi tutto questo ha scatenato una reazione che ha quasi elevato il ruolo di Luigi Mangione a eroe sui social media. Io devo fare subito una premessa: è evidente che sono contrario all'idea di ammazzare qualcuno perché magari per le ragioni più varie, diciamo, mi verrebbe da dire, quindi non mi metterei mai a giustificare un omicidio. Però certo, delle domande penso sia legittimo porsele, e se le pone anche Ezio Mauro, che cerca di inquadrarla in un contesto di trasformazione sociale che è quello della divaricazione sempre più evidente tra categorie di, appunto, garantiti anche dal sistema che si autodefinisce democratico, e gli esclusi, finendo poi quindi per abbracciare automaticamente in modo identitario, e questa è la parte dell'articolo che non mi piace, tutta un'altra serie di comportamenti. Cioè automaticamente il gesto di Thompson viene esaltato da chi? Da chi evidentemente non si sarà vaccinato, da chi evidentemente tifa per Putin, da chi evidentemente... cioè subito collocare queste persone in un'area di pensiero predeterminata dalla personalissima, diciamo, geografia delle idee di Ezio Mauro. Idee ancora una volta per appartenenza, cioè mai nel merito. Quindi, per intenderci, non ci sono alternative a questa visione divaricata del mondo, perché questo è il punto. Cioè, se noi dipingiamo i due mondi in questo modo e attribuiamo ruoli su base identitaria, non possiamo certo pretendere invece contribuire a una visione di una società unica che si dota di istituzioni democratiche per il bene di tutti, no? Ecco, questa è la prima cosa che mi viene un po' da dire su questo articolo, che poi magari cercherò anche di linkare, se sarà possibile, anche per un confronto con voi, proprio su Telegram. Ma la parte che mi ha più, diciamo così, fatto arrabbiare, si può dire, è la parte in cui, come premessa, si dice che il problema è che le parole d'ordine della politica faticano a farsi ascoltare. Cioè il problema è sempre il fatto che le persone non ascoltano. Cioè, nessuno minimamente mette in dubbio che forse, appunto, le parole d'ordine della politica potrebbero cambiare. No, invece appunto di perpetuare identitariamente questa divaricazione. Cioè, nessuno, evidentemente il messaggio che deve arrivare al lettore di Repubblica, che si considera in larga misura appunto la parte buona della società, la parte che ha studiato, la parte che quindi crede nelle istituzioni, la parte che quindi porterebbe l'Italia fuori dalla fanga in cui si trova, cioè il messaggio è: state tranquilli, sembra dire Ezio Mauro, voi che mi leggete, voi siete la parte buona del paese. E quindi come fa questo articolo a dispiacersi di una divaricazione di cui è corresponsabile? Ecco, questa è la cosa un po' che mi stranisce.